Gli estranei, siano naufraghi aggappati a una zattera o viaggiatori doverosamente scortati e seguiti da valigie, hanno sempre esercitato un fascino particolare sulla mente vergine che il merito della gente del luogo ha sollecitato invano. E un estraneo era assolutamente necessario per l'idillio sociale di Rosamond, che aveva sempre sognato un innamorato e uno sposo che non fosse di Middlemarch e che non avesse assolutamente dei parenti simili ai suoi. Negli ultimi tempi, in effetti, l'edificio così costruito sembrava esigere che questi fosse in qualche modo imparentato con un baronetto. Ora che lei e il forestiero si erano incontrati, la realtà si dimostrava molto più toccante del previsto e Rosamond non poté dubitare che questo fosse il grande momento della propria vita. Giudicò i propri sintomi, quelli dell'amore che si sta destando, e ritenne ancora più naturale che Mr. Lydgate si fosse innamorato di lei a prima vista. Cose simili accadevano tanto spesso ai balli, e perché non alla luce del mattino che conferisce alla carnagione un aspetto tanto migliore? Rosamond, sebbene non avesse più anni di Mary, era abituata a vedere della gente innamorarsi di lei, ma per parte sua era rimasta indifferente e incontentabile, ipercritica nei confronti sia del giovincello inesperto che dello scapolo avvizzito. Ed ecco, Mr. Lydgate, d'un tratto corrispondere al suo ideale, era completamente estraneo a Middlemarch, possedeva una certa aria di distinzione adeguata a una buona famiglia ed era imparentato con gente che offriva buone prospettive su quel paradiso borghese che si chiama il Ceto. Un uomo di talento, inoltre, che sarebbe stato particolarmente piacevole sottomettere. Insomma, un uomo che aveva colpito la sua natura in modo del tutto nuovo e aveva portato nella sua vita un vivo interesse superiore a qualsiasi sognata supposizione che lei era solito opporre alla realtà. Talché, cavalcando verso casa, tanto il fratello che la sorella erano preoccupati e inclini al mutismo. Rosamond, il fondamento delle cui fantasticherie aveva di solito una vaga inconsistenza, era dotata di un'immaginazione notevolmente realistica e ricca di dettagli, ora che la sua congettura aveva un saldo fondamento. E prima di aver percorso un miglio, era già tutta presa dallo stile e dagli esordi della sua vita matrimoniale. Dopo aver deciso quale sarebbe stata la sua casa Middlemarch e previsto le visite che avrebbe fatto ai nobili, lontani parenti del marito, dei modi raffinati dei quali si sarebbe potuta appropriare con la stessa compiutezza con cui aveva preso la sua educazione scolastica, preparandosi così a più vaghe promozioni che sarebbero potute venire in seguito. Nelle sue previsioni non c'era alcuna preoccupazione finanziaria o di genere ancora meno ignobile. Le premevano le cose che erano considerate raffinatezze, non i soldi con cui doveva procurarsele. La mente di Fred, d'altro canto, era agitata da un'ansia che persino il suo pronto ottimismo non poté immediatamente soffocare. Non scorgeva alcun modo di sottrarsi alla stupida richiesta di Featherstone senza andare incontro a conseguenze ancor meno gradite del compito di soddisfarla. Suo padre era già indispettito con lui e lo sarebbe diventato ancora di più se egli fosse stato la causa di un ulteriore irrigidimento dei rapporti fra la propria famiglia e i Bulstrode. Quindi lui stesso detestava dover andare a parlare con lo zio Bulstrode. Forse dopo aver bevuto del vino si era lasciato sfuggire molte sciocchezze sulla proprietà di Featherstone e queste erano state ingigantite da chi le aveva riferite. Fred si rendeva conto di fare una figura sciagurata se dopo essersi millantato che quel vecchio avaro eccentrico di Featherstone le aveva dato delle speranze, fosse andato a chiedere delle dichiarazioni dietro suo comando. Ma quelle speranze egli in realtà le aveva e non scorgeva alcuna alternativa piacevole se rinunciava ad esse. Per di più, negli ultimi tempi aveva contratto un debito che lo irritava enormemente e il vecchio Featherstone, in cambio, aveva quasi promesso di estinguerlo. Tutta la storia era deplorevolmente meschina, i suoi debiti erano modesti, anche le sue speranze non erano nulla di così grandioso. Fred aveva conosciuto uomini a cui si sarebbe vergognato di confessare la modestia dei suoi guai. Simili riflessioni naturalmente producevano una vena di amara misantropia. Essere nato figlio di un industriale di Middlemarch e non essere l'erede sicuro di nulla in particolare, mentre uomini come Mainwaring e Wine. Certo, la vita era un magro affare, quando un giovanotto vigoroso, con una gran voglia di avere il meglio di tutto, offriva delle prospettive così deludenti. A Fred non era passato per la mente che la comparsa del nome di Bulstrode nella faccenda fosse un'invenzione di Mr. Fairstone, né questo avrebbe comportato alcuna differenza per la sua situazione. Si rendeva conto con sufficiente chiarezza che il vecchio voleva esercitare il suo potere tormentandolo un po', e probabilmente anche per ricavare una certa soddisfazione dalla vista che fra lui e Bulstrode c'erano dei rapporti tesi. Fred immaginava di penetrare fino in fondo all'anima di suo zio, mentre in realtà la metà di ciò che vi scorgeva non era altro che il riflesso delle proprie propensioni. L'impresa difficile di conoscere un'altra anima non è fatta per dei giovanotti la cui coscienza è per lo più composta dai loro desideri. La questione principale che Fred dibatteva dentro di sé era se dovesse informare il padre o cercare di sistemare la faccenda senza che questi lo sapesse. Probabilmente era stata Mrs. Whale a parlare di lui, e se Mary Garth aveva riferito a Rosamond le parole di Mrs. Whale, queste sarebbero certamente giunte all'orecchio del padre, il quale altrettanto sicuramente le avrebbe chiesto delle spiegazioni. Mentre rallentavano l'andatura, disse Rosamond: Rosie, Mary ti ha detto per caso che Mrs. Whale aveva riferito qualcosa su di me? Sì, è così. E cos'era? Che tu avevi dei nervi assai poco saldi. Tutto qui? Direi che è stato abbastanza, Fred. Sei sicura che non ha detto altro? Mary non ha parlato d'altro. Ma davvero, Fred, penso che dovresti vergognarti. Oh, diavolo, non mi fare la ramanzina. Qual è stato il commento di Mary? Non sono obbligata a dirtelo. Sei troppo preoccupato di quello che dice Mary e sei troppo maleducato per permettermi di parlare. Naturale che mi preoccupi di quello che dice Mary. È la miglior ragazza che conosca. Non avrei mai pensato che fosse una ragazza di cui innamorarsi. Come fai a sapere di cosa si innamorano gli uomini? Le ragazze non lo sanno mai. Perlomeno, Fred, lascia che ti dia io il consiglio di non innamorarti di lei, perché lei dice che non ti sposerebbe anche se glielo chiedessi. Avrebbe potuto aspettare fino a quando non glielo avessi chiesto. Sapevo che ti avrebbe irritato. Per niente. Non avrebbe detto così se tu non l'avessi provocata. Prima di arrivare a casa, Fred aveva deciso di rivelare l'intera faccenda nei termini più semplici possibili al padre, il quale forse avrebbe potuto assumersi lo sgradito compito di parlare con Bulstrode. Libro 2. Vecchi e giovani. Capitolo 13. In seguito a ciò che Fred le aveva detto, Mr. Vincey decise di parlare con Mr. Bulstrode nel suo ufficio privato in banca all'1:30, quando di solito era libero da altri visitatori. Ma all'1 era arrivata una persona e Mr. Bulstrode aveva un tal numero di cose da comunicarle che era improbabile che il colloquio terminasse nel giro di mezz'ora. Il banchiere era loquace, ma anche prolisso e faceva trascorrere una notevole quantità di tempo in brevi pause meditative. Non immaginatevi che il suo aspetto malaticcio fosse di quelli dalla pelle gialla e dai capelli neri. Aveva la pelle esangue, radi capelli castani spruzzati di grigio, occhi grigio chiari e una fronte spaziosa. Gli uomini fragorosi definivano un bisbiglio il suo tono sommesso e talvolta insinuavano che non gli andava genio la franchezza. Per quanto non sembra ci sia alcun motivo perché un uomo dalla voce possente non debba avere nulla da nascondere tranne la propria voce, a meno che non si possa dimostrare che le sacre scritture hanno posto nei polmoni la sete della sincerità. Mr. Bulstrode, inoltre, si chinava con deferenza ad ascoltare e nei suoi occhi c'era un'attenzione così evidentemente concentrata che le persone che si giudicavano meritevoli di ascolto erano indotte a dedurre che egli cercasse di trarre il massimo vantaggio dalle loro parole. Altre, che non si aspettavano di fare un figurone, detestavano di vedersi puntare addosso quella specie di lanterna morale. Se non andate fiero della vostra cantina, non provate un brivido di soddisfazione alla vista del vostro ospite che osserva il suo bicchiere di vino controluce con occhio critico. Tali gioie sono solo per chi sa di meritarle. Perciò la rigorosa attenzione di Mr. Bulstrode non era gradita ai pubblicani e ai peccatori di Middlemarch. Alcuni la attribuivano al fatto che fosse un fariseo, altri un evangelico. Fra costoro, chi ragionava con meno superficialità avrebbe voluto sapere chi fossero stati suo padre e suo nonno, e faceva osservare che 25 anni prima nessuno aveva mai sentito parlare di un Balstro da Middlemarch. Per il suo attuale visitatore, Lydgate, quell'occhiata indagatrice era indifferente. Si limitò a farsi un'opinione sfavorevole del carattere del banchiere e concluse che aveva un'ardente vita interiore e godeva ben poco delle cose tangibili. Vi sarò estremamente grato se passerete qui da me di quando in quando, Mr. Lydgate, osservò il banchiere dopo una breve pausa. Se, come oso sperare, avrò il privilegio di trovare in voi un prezioso collaboratore per l'interessante questione della direzione dell'ospedale, ci saranno molti problemi che avremo necessità di discutere in privato. Quanto al nuovo ospedale, che è quasi terminato, prenderà in considerazione ciò che avete detto sui vantaggi di una sua destinazione particolare alla cura delle malattie infettive. La decisione sta a me, perché sebbene Lord Medlicott abbia concesso la terra e il legname per la costruzione, non è incline a occuparsi personalmente della faccenda. Ci sono poche cose che meritano un impegno maggiore in una città di provincia come questa, disse Lydgate. Un bell'ospedale per le malattie infettive, aggiunto al vecchio ospedale, potrebbe essere il nucleo di una scuola di medicina qui, una volta varate le riforme sanitarie. E cosa sarebbe più utile all'istruzione medica della diffusione di tali scuole per tutto il paese? Un uomo nato in provincia che abbia un granello di senso civico, oltre ad alcune idee, dovrebbe fare il possibile per resistere alla corsa verso Londra di tutto ciò che è un poco superiore alla media. Qualsiasi valido intento professionale può spesso trovare un campo più libero, se non addirittura più ricco, nelle province. Una delle doti di Lydgate era la sua voce solitamente profonda e sonora, tuttavia suscettibile di diventare molto bassa e gentile al momento giusto. Nella sua persona c'era un certo slancio, un'impavida attesa di successo, una fiducia nelle proprie capacità e un'integrità resa assai più salda da un rispetto per gli ostacoli di poco conto e le seduzioni di cui non aveva ancora fatto esperienza. Ma questa orgogliosa franchezza era resa gradevole da un'espressione di spontanea benevolenza. A Mr. Bulstrode, forse, egli piaceva ancora di più per la differenza esistente fra loro di tono e di modi. Certo, lo trovava tanto più simpatico come Rosamond perché non era di Middlemarch. Con una persona nuova si possono cominciare tante cose, si può persino cominciare ad essere migliori. Sarò ben lieto di offrire al vostro entusiasmo occasioni più impegnative, rispose Bulstrode. Voglio dire, affidandovi la direzione di un nuovo ospedale, se una conoscenza più completa favorirà questa soluzione, poiché voglio assolutamente che un disegno così grandioso non venga ostacolato dai nostri due medici. In effetti, sono incoraggiata a considerare la vostra venuta in questa città come il segno miracoloso che una benedizione più manifesta verrà ora concessa ai miei sforzi, che finora hanno incontrato grosse resistenze. Riguardo al vecchio ospedale, abbiamo vinto la prima mossa. Intendo dire la vostra elezione, e ora spero che non esiterete ad affrontare una certa dose di gelosia e di antipatia da parte dei vostri colleghi, presentandovi come un riformatore. Non voglio professarmi coraggioso, disse Lydgate sorridendo, ma riconosco di provare un gran gusto a lottare e non amerei la mia professione se non credessi che in essa si devono trovare e far valere metodi migliori come in ogni altro campo. Il livello di questa professione è basso a Middlemarch, mio caro signore, disse il banchiere. Mi riferisco alle nozioni, alle capacità, non alla posizione sociale, perché i nostri medici qui sono imparentati con cittadini rispettabili. La mia salute malferma mi ha indotto a rivolgere una certa attenzione a quei palliativi che la pietà divina ha posto a nostra disposizione. Ho consultato personaggi eminenti nella capitale e sono dolorosamente consapevole della arretratezza in cui versano le cure mediche nelle nostre province. Sì, con l'istruzione e gli ordinamenti medici attuali, uno deve accontentarsi di quando in quando di incontrare un onesto generico. Quanto alle questioni superiori, che stabiliscono il punto di partenza di una diagnosi, quanto alla filosofia dei sintomi in medicina, un qualsiasi barlume di queste può provenire solo da una cultura scientifica di cui i medici generici del paese non hanno neppure una pallida idea. Mr. Bulstrode, chinatosi e guardando attentamente, si rese conto che la forma che Lydgate aveva dato al proprio consenso non era del tutto in armonia con quanto aveva compreso. In tali casi, una persona assennata cambia argomento ed entra in un campo in cui le proprie doti possono essere più utili. Mi rendo conto, disse, che la professione medica guarda con particolare predilezione i mezzi materiali. Comunque, Mr. Lydgate, spero che non dissentiremo riguardo a una questione in cui non è probabile che voi siate coinvolto di persona, ma in cui la vostra favorevole collaborazione può essermi di aiuto. Riconoscete, spero, l'esistenza di interessi spirituali nei vostri pazienti? Certo, ma queste parole sono soggette a rivestire diversi significati per mentalità diverse. Precisamente. E su simili argomenti un insegnamento sbagliato è disastroso come un insegnamento nullo. Ora, un vantaggio che mi sta molto a cuore ottenere è un nuovo regolamento per quello che riguarda l'assistenza religiosa nel vecchio ospedale. L'edificio sorge nella parrocchia di Mr. Faith Brother. Conoscete Mr. Faith Brother? L'ho incontrato, mi ha votato. Devo passare a ringraziarlo, sembra un ometto assai vivace e piacevole e mi dicono che sia un naturalista. Mr. Faith Brother, mio caro signore, è un uomo la cui vista procura un profondo dolore. Suppongo che in questo paese non ci sia un prete che abbia doti maggiori. Mr. Bulstrode tacque e assunse un aspetto meditabondo. Non ho ancora provato finora il dolore di trovare alcun talento eccessivo a Middlemarch, disse Lydgate in tono reciso. Ciò che desidero, proseguì Bulstrode, assumendo un aspetto ancora più serio, è che l'assistenza di Mr. Faith Brother all'ospedale sia sostituita con la nomina di un cappellano, di Mr. Tyke per la precisione, e che non sia richiesto nessun altro ausilio spirituale. In quanto medico, non potrei avere un'opinione su un simile argomento, a meno che non conoscessi Mr. Tyke, e anche in quel caso vorrei sapere a che mansioni si è dedicato, disse Lydgate sorridendo, ma era intenzionato a parlare con circospezione. Naturalmente, al momento attuale non potete entrare pienamente nel merito di questa questione, ma. E qui Mr. Bulstrode principiò a parlare con un'enfasi più elaborata. È probabile che l'argomento sia rimesso al consiglio dei medici dell'ospedale, e quello che spero di potervi chiedere è che, in virtù della reciproca cooperazione che mi aspetto nasca fra noi due, voi non vi farete, per quel che mi compete, influenzare dai miei avversari su questo argomento. Spero di non aver nulla a che fare con delle dispute religiose, disse Lydgate, la strada che ho scelto è di lavorare bene nella mia professione. La mia responsabilità, Mr. Lydgate, è di più vasta portata. Per me, in effetti, questa è una questione di dovere religioso, mentre per i miei avversari ho buoni motivi per affermare che si tratta dell'occasione per gratificare uno spirito di ostilità mondana. Ma non per questo recederò di un millimetro dalle mie convinzioni o cesserò di identificarmi con quella verità che una generazione malvagia odia. Mi sono dedicato allo scopo del miglioramento ospedaliero, ma ho l'audacia di confessarvi, Mr. Lydgate, che non nutrirei alcun interesse per gli ospedali se credessi che in questi non ci si cura altro che del trattamento delle malattie fisiche. Io ho un altro campo d'azione e sono deciso a non nasconderlo, a dispetto di venir perseguitato. La voce di Mr. Bulstrode era divenuta un sussurro sonoro e inquieto mentre pronunciava le ultime parole. Su questo punto non siamo certo d'accordo, disse Lydgate, ma proprio allora non gli dispiacque che la porta venisse aperta e Mr. Vincey annunciato. Questo florido, socievole personaggio aveva cominciato a suscitare il suo interesse da quando aveva visto Rosamond. Ciò non significa che anche egli, come lei, avesse intessuto un qualche futuro in cui i loro destini fossero uniti. Ma un uomo ricorda naturalmente con piacere una ragazza affascinante ed è disposto a cenare dove la possa rivedere. Prima che si congedasse, Mr. Vincey gli aveva comunicato quell'invito per il quale non aveva avuto alcuna fretta, perché Rosamond a colazione aveva affermato che, a suo parere, lo zio Firstone aveva preso in gran simpatia il nuovo dottore. Mr. Bulstrode, rimasto solo col cognato, si versò un bicchiere d'acqua e aprì una scatoletta di tramezzini. Non posso indurvi ad adottare il mio regime dietetico, Vincey. No, no, non sono per nulla favorevole a quel sistema. La vita ha bisogno di un'imbottitura, disse Mr. Vincey, incapace di tenersi la sua teoria pratica per sé. Comunque, proseguì, accentuando la parola, come se volesse sgombrare il campo da ogni elemento estraneo. Ciò di cui ero venuto a parlarvi era una piccola faccenda del mio giovane scavezzacollo, Fred. Questo è un argomento su cui è probabile che voi ed io intratteniamo opinioni diverse come in tema di dieta, Vincey. Questa volta spero di no. Mister Vincey era risoluto a restare di buon umore. Il fatto è che si tratta di un capriccio del vecchio Firstone. Qualcuno ha inventato una storia per fargli dispetto e l'ha raccontata al vecchio per cercare di metterlo contro Fred. Lui vuole molto bene a Fred ed è probabile che gli faccia un grosso regalo. In effetti, ha già detto a Fred che intende lasciargli la sua terra e questo rende gelosi gli altri. Vincey, devo ripetervelo. Non otterrete la mia approvazione per quanto riguarda la strada che avete seguito per il vostro figlio maggiore. È stato del tutto per vanità terrena che lo avete destinato alla Chiesa. Con una famiglia di 3 maschi e 4 femmine, non eravate giustificato a buttare dei soldi per un'istruzione dispendiosa che non ha sortito nulla eccetto dargli abitudini dispendiose e oziose. Ora raccogliete le conseguenze. Additare gli errori altrui era un dovere dal quale Mr. Bulstrode si esimeva di rado, ma Mr. Vincey non era preparato in egual misura a essere paziente. Quando uno ha la prospettiva a brevissimo termine di diventare sindaco ed è pronto, nell'interesse del commercio, ad assumere un atteggiamento di fermezza sulla politica in generale, possiede naturalmente un senso della propria importanza per l'ordinamento pubblico delle cose che sembra relegare in secondo piano questioni di condotta privata. E questo rimprovero in particolare lo irritò più di qualsiasi altro. Per lui era assolutamente inutile che gli dicessero che ne stava raccogliendo le conseguenze, ma avvertiva il gioco di Balstrodo sul proprio collo e, sebbene di solito gli piacesse scalciare, era ansioso di trattenersi da questo sfogo. Quanto a questo, Balstrode, è inutile andare a rivangare. Non sono uno dei vostri uomini modello e non pretendo di esserlo. Non potevo prevedere tutto sull'andamento del commercio. A Middlemarch non c'era azienda migliore della nostra e il ragazzo era intelligente. Il mio povero fratello era uomo di chiesa e avrebbe fatto molta strada, aveva già avuto una promozione, ma quella febbre intestinale se lo ha portato via, altrimenti a quest'ora sarebbe stato un decano. Penso di aver avuto dei buoni motivi per quello che ho tentato di fare per Fred. Se vogliamo parlare di religione, mi sembra che un uomo non dovrebbe volersi spogliare della carne fino all'ultima oncia in anticipo. Bisogna avere un po' di fiducia nella provvidenza ed essere generosi. È un buon sentimento inglese cercare di far stare un po' meglio la propria famiglia. Secondo me, è dovere di un padre dare ai propri figli una buona occasione. Non desidero comportarmi altro che come vostro migliore amico, Vincey, quando affermo che quello che avete appena detto è una montagna di mondanità e di follia incoerente. Molto bene, disse Mr. Vincey, scalciando nonostante la propria decisione. Non confesso mai di essere altro che mondano e vi dirò di più. Non vedo nessun altro che non sia mondano. Suppongo che voi non conduciate affari in base a quelli che chiamate i principi spirituali. L'unica differenza che ci vedo è che una mondanità è un pochino più onesta dell'altra. Questo genere di discussioni non porta a niente, Vincey, disse Bulstrode, il quale, finito il proprio tamezzino, si era appoggiato allo schienale della poltrona e si faceva ombra agli occhi come se fosse stanco. Avevate una qualche faccenda più particolare? Già, a farla breve, qualcuno ha detto al vecchio Featherstone, portando voi come fonte autorevole, che Fred ha preso o ha cercato di prendere a prestito dei soldi con la prospettiva di ereditare la sua terra. Naturalmente voi non avete mai detto una sciocchezza simile, ma il vecchio si è intestardito e insiste perché Fred gli porti una smentita di vostro pugno, cioè una semplice nota che affermi che voi non credete a una parola di una simile storia, né che abbia preso, né che abbia tentato di prendere a prestito in un modo così scriteriato. Suppongo che non abbiate nessuna obiezione a farlo. Scusatemi, ce l'ho un'obiezione. Non sono per nulla certo che vostro figlio, sconsiderato e ignorante com'è, e non voglio ricorrere a parole più dure, non abbia tentato di procurarsi del denaro avanzando a garanzia queste future prospettive, o addirittura che qualcuno non possa essere stato a tal punto stupido da darglielo sulla base di una prospettiva così vaga. Al mondo si fanno una quantità di simili prestiti alla cieca come altre follie. Ma Fred mi dà la sua parola d'onore che non ha mai preso a prestito denaro con la pretesa che ci fosse un accordo sulla terra di suo zio. Non è un bugiardo. Non voglio dipingerlo migliore di quanto non sia. Gli ho dato una bella strigliata Nessuno può dire che chiudo un occhio su quello che fa, ma non è un bugiardo. E credo, ma posso sbagliarmi, che non ci sia alcuna religione che impedisca a uno di credere il meglio di un giovanotto quando non si conosce il peggio. Mi sembra che sarebbe un genere di religione gretta, mettergli i bastoni fra le ruote, rifiutando di dire che non credete a tali calunnie su di lui, se non avete alcun buon motivo per crederlo. Non sono per nulla certo che aiuterei vostro figlio spianandogli la strada per il futuro possesso della proprietà di Featherstone. Non posso considerare la ricchezza una benedizione per coloro che se ne servono semplicemente come di una messe per questo mondo. A voi, Vinci, non garba sentire queste cose, ma in questa occasione mi sento obbligato a dirvi che non ho alcun motivo di secondare una tendenza a possedere come quella a cui vi riferite. Non mi esimo dal dire che questa non gioverà al bene eterno di vostro figlio, né alla gloria di Dio. Perché allora dovreste aspettarvi da me che io vi stenda questa specie di dichiarazione che non ha altro fine che quello di sostenere una stupida parzialità e di assicurare uno stupido lascito? Se volete impedire a tutti coloro che non sono santi o evangelici di avere del denaro, dovrete rinunciare a qualche vantaggiosa alleanza finanziaria. È tutto quello che posso dire, sbottò secco secco Mr. Vincey. Può darsi che sia per la gloria di Dio, ma non è per la gloria del commercio di Middlemarch che Plymdale usa quei colori blu e verdi che si procura dalla fabbrica di Bressing. Fanno marcire la seta. Ecco tutto quello che ne so. Forse, se altra gente sapesse che una così grossa parte del profitto va per la gloria di Dio, potrebbe gradire di più la cosa. Ma di questo non mi curo più di tanto. Potrei far nascere un bel putiferio se volessi.